America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. So you know, you think that they'd say, great going, Don. No, he doesn't do that. There's a whole deal going on, we're going to figure it out. I always figure things out. Donald Trump che continua ad attaccare, nonostante le difficoltà in cui si trova, ieri altri 13 importanti esponenti del Partito Repubblicano, tra cui alcuni ministri che avevano lavorato nel gabinetto di George W. Bush, lo hanno abbandonato. Eppure qui dice, dopo la mia vittoria nel dibattito contro Hillary, non credete che Ryan avrebbe dovuto semplicemente dire bravo Donald? E invece non l'ha fatto. Qui c'è un accordo sinistro in atto e io lo scoprirò. Dunque un Trump che continua a giocare al rilancio in una situazione tuttavia, direi alquanto deprimente, soprattutto per il Partito Repubblicano. Vi avevo raccontato un po' ieri quali erano le dinamiche interno al partito. Non voglio continuare a parlare di politica, direi cambiamo tema, facciamo una pausa e dunque vi faccio ascoltare questo spezzone, vediamo se lo riconoscete. Ma perché parliamo in inglese? Qui dentro si può parlare in italiano. Oh, that wouldn't be nice. I would like everybody to understand. Ecco, vi ho fatto sentire questo piccolo spezzone di un film. Il film è Mortadella e avrete riconosciuto la voce perché chi parla e chi porta la mortadella di nascosto è Sophia Loren, quindi la grande, grandissima star amatissima dagli americani. È un film, come dire, di sapore italo-americano, di sapore d'altri tempi, perché allora c'era, chiamiamolo, il proibizionismo sui salumi italiani che dovevano arrivare in America. E dunque lì poi nel film succede di tutto, perché questa mortadella, naturalmente, che Sophia Loren porta in valigia, un bel mortadellone tra l'altro e abusivo, interviene la dogana. Insomma, non vi sto a raccontare i dettagli, però mi dà lo spunto per parlarvi di che cosa? Ma del fatto che l'America su alcune tematiche continua a essere rigidissima. Per esempio sulle importazioni dei salumi, degli insaccati in particolare. Qual è la scusa? La scusa in realtà è di natura, come dire, sanitaria, perché il protezionismo funziona in molti modi e l'applicazione di norme sanitarie strettissime è una di quelle che sono più alla moda, diciamo così, fra coloro che si occupano appunto di proteggere le frontiere. Ecco, per parlare di questo, delle prospettive anche dell'insaccato, ho con me ai microfoni di America 24 un esperto in materia. Vittore Beretta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Beretta. Ecco, chiami pure Mario, che va bene. Buongiorno, dottor Platero. Eccoci. Allora, dunque, lei, la sua famiglia fa salumi da 200 anni, no? Sì. La famiglia Beretta ha... voi dove lavorate? In Brianza, no? Avete i vostri impianti. Siamo nati in Brianza e ci stiamo sviluppando in Italia e anche un po' nel mondo. Beh, in America e in Cina, quindi dalla Brianza a New York, anzi dalla Brianza al New Jersey, potrebbe essere un titolo di un nuovo film, sì. Questo qui. Ecco, ma secondo lei, se ci dovesse essere questo accordo commerciale di cui si parla tanto, le esportazioni degli insaccati che oggi non possono arrivare in America sarebbero liberalizzate, cioè fanno parte di quel negoziato o sbaglio? Ma riteniamo che a lungo andare sì, e deve essere così. Il problema è che finora sono stati accampati dei problemi di origine sanitaria per bloccare queste esportazioni. Ecco, però voi, come molti italiani che poi sono molto ingegnosi, vi siete appunto ingegnati, sì. E avete aperto delle fabbriche di salumi qua in America. Sì. E mi sembra che le cose stiano andando piuttosto bene, perché avete aperto una fabbrica un paio d'anni fa. Avete degli obiettivi, se non sbaglio, di raggiungere vendite da 50 a 100 milioni nel 2018 e siete in anticipo. Come stanno andando le cose? Sì, stanno andando, grazie a Dio, bene. Sfioriamo i 100 milioni di venduto in America già quest'anno e senz'altro lo raggiungeremo l'anno prossimo, quindi siamo in anticipo di un anno barra due sul programma. Quindi siete venuti in America a fare il salame italiano. Qual è la vostra struttura in America in questo momento? La nostra struttura è fatta da tre stabilimenti, uno ad Hackensack nel New Jersey, che è il primo, un altro a Fresno in California, in cui siamo arrivati nel 2007, e adesso adesso, da un anno, abbiamo aperto il terzo, sempre nel New Jersey, a Mount Olive. Ecco, e come riuscite a diffondere il vostro prodotto negli Stati Uniti? Perché non deve essere facile. So che qui si vende molto il salame americano Genoa, Genova lo chiamano. E come siete riusciti a penetrare questo mercato? No, grazie al cielo, il mercato americano si sta aprendo molto, perché fino a qualche anno fa i consumatori di salumi all'italiana erano i figli di emigrati di seconda, terza generazione. Oggi parecchie comunità consumano e apprezzano il salume all'italiana. Ecco, ma andiamo un po' sul tecnico, perché voi qui producete un salame in America, un salame americano con carni americane, e che si confronta con salami americani fatti con carni americane. Ecco, allora, è meglio il vostro salame all'italiana o no? E se è meglio, perché è meglio? È senz'altro meglio. Beh, questo ovviamente è stata la mia anche una domanda ingenua, ma diciamo, perché è meglio? Noi riteniamo innanzitutto perché è fatto con il savoir-faire italiano nostro, è fatto con gli impianti migliori e più attuali, sempre costruiti in Italia per fare il salame, installati da poco tempo, e soprattutto perché alcuni maestri salumieri sono venuti dall'Italia e sono qui a insegnare agli dipendenti americani a fare un salame simile a quello italiano. Quindi lei è per la globalizzazione, cioè si investe all'estero. Quanto avete investito negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 50 milioni di dollari. E i dipendenti che avete in America? In America ne abbiamo 162 all'ovest e 82-83 all'est. Quindi circa 250 dipendenti. Tra New Jersey e California. E California. Senta, ma avete portato i maestri salumai, ma non c'è il pericolo che poi gli americani imparano, ci rubano l'idea, si fanno i loro impianti? Mi pare che nel Midwest un produttore è andato in Italia, ha imparato a fare il prosciutto, adesso fa un prosciutto buonissimo. No, non c'è problema, perché noi crediamo in un'istruzione trasparente dei nostri collaboratori. Abbiamo fatto la Beretta Academy in Italia, la stiamo estendendo qui negli Stati Uniti, perché i nostri dipendenti non devono imparare apertamente il savoir-faire, sia per l'istruzione in Italia che in America o in Cina. Non abbiamo segreti, perché crediamo in una trasparenza e in un'apertura assoluta a tutti i nostri collaboratori e al mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo sempre Vittore Beretta con noi. Allora, che canzone le viene in mente, voi che producete il salame in America? My Way, a modo mia, cantata da o Sinatra o Presley. Allora scegliamo Presley. My Way! And now the end is near, so I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!